Euroreportage. Le tentazioni della Brexit di Maura Bertanzon. Today, public disillusionment with the EU is at an all-time high. Era il gennaio 2013 e il premier inglese David Cameron, davanti alle telecamere di Bloomberg, parlava di una disillusione sempre più alta nei confronti dell'Unione Europea. Parlava di interferenze, di una strada mai voluta dai cittadini, almeno quelli britannici, per cui l'unica idea di Unione era quella di un mercato unico, quella scelta nel referendum del 1975. Novembre 2015, quasi tre anni dopo, quel discorso diventa una lista di quattro condizioni all'indirizzo di Bruxelles. Quattro condizioni per rinegoziare l'adesione della Gran Bretagna prima di mettere in piedi il referendum sull'uscita dall'Unione, la Brexit, promesso da Cameron in campagna elettorale. Il principio di una ever closer union, un'unione sempre più stretta ai cittadini di Sua Maestà, proprio non va giù e non sono gli unici. Un'UE a taglia unica non piace ai danesi, ad esempio, che a dicembre, con un referendum molto sentito in patria e poco nulla oltre confine, hanno detto no ad una maggiore integrazione. Tra le proposte di Cameron c'è il freno di emergenza, e cioè la sospensione di alcuni benefit sociali per i cittadini europei in cerca di lavoro oltremanica, legandoli ad una residenza di almeno 4 anni. Lo scopo? Ridurre un'immigrazione fin troppo massiccia. Ma perché si sta meglio con uno o più piedi fuori dall'UE? Ne abbiamo parlato con Syed Kamal, europarlamentare inglese alla guida a Bruxelles della terza forza del Parlamento, il gruppo dei conservatori e riformisti, e da molti considerato il portavoce informale di Cameron. Britain is probably the, I would say, probably the most open country in Europe. Direi che la Gran Bretagna è il paese più aperto del mondo, probabilmente anche il più assortito. Per secoli abbiamo accolto le persone, abbiamo tratto benefici dall'immigrazione, da chi è arrivato per dare un contributo al paese e per lavorare. È un problema però quando hai stati con un evidente divario di ricchezza. È chiaro che queste persone vogliono spostarsi verso stati più ricchi, con uno sviluppo maggiore, ma è giusto che se arrivano da noi e non lavorano possano avere sussidi sociali, anche se non hanno pagato contributi? Sono nodi di una discussione complessa. Quello che è chiaro è ciò che stiamo cercando di fare da entrambe le parti. L'Unione Europea, la Commissione, sta cercando di capire la struttura del sistema sociale britannico e la Gran Bretagna sta cercando di spiegare perché il nostro sistema di welfare è così complesso. Varie misure, ad esempio il credito d'imposta o le agevolazioni per i lavoratori, sono molto diverse da quelle di altri paesi. E Bruxelles sembra aver ceduto, almeno un po'. A inizio febbraio la proposta del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, sì alla sospensione di alcune garanzie di welfare per i lavoratori comunitari, come quelle sull'integrazione dei salari più bassi, sugli assegni familiari e sugli alloggi popolari, ma solo in casi particolari e per un tempo determinato. Resta salva la libertà di movimento, la linea rossa che non ho oltrepassato sono i principi su cui è fondata l'Unione, dice Tusk in una lettera, lasciando ai tecnici, agli sherpa, il lavoro da proseguire. Altro nodo da sciogliere è quello della sovranità, con la richiesta di un potere maggiore ai parlamenti nazionali per bloccare provvedimenti europei non condivisi, spiega Kamal. L'Unione Europea deve riformarsi, essere più flessibile, rispondere alla gente. Oggi sembra andare tutto in una sola direzione. Gli stati devono poter pesare di più. Per questo oggi stiamo studiando come mettere insieme più parlamenti nazionali per dire alla Commissione: aspetta, questo non funziona nel nostro paese, siamo molto preoccupati, rivediamo la tua proposta. Rinegoziare per rimanere, dunque, l'arte del compromesso per scongiurare l'uscita dal perimetro europeo di uno Stato membro e non di uno qualsiasi. Una cosa non solo mai vista, ma nemmeno prevista. Dobbiamo abbandonare l'idea di un'unione a taglia unica che vada bene per tutti. Solo perché una legge va bene per la Germania o per la Gran Bretagna non significa che possa andare bene per l'Italia, considerando la vostra storia e le vostre condizioni. Perché ci sia una maggiore cooperazione europea, bisogna che i paesi dicano: sai, questo non ci interessa, non abbiamo interesse a farne parte. L'Unione Europea potrebbe non piacere a tutti gli stati, magari alcune parti sì, ma non tutti vogliono essere parte degli Stati Uniti d'Europa o di una Repubblica Federale d'Europa, e invece sono circondato da persone che vogliono realizzare questo sogno. E poi l'opt-out, cioè la possibilità di chiamarsi esplicitamente fuori dalla clausola dei trattati che prevede appunto la partecipazione a un'unione sempre più stretta. I think opt-outs are more honest. Credo che scegliere l'opt-out sia più onesto. È dire al resto d'Europa non vogliamo essere legati a questa condizione. Penso che il peggio siano quei paesi che sottoscrivono accordi che poi non rispettano. Abbiamo paesi che hanno aderito al patto di stabilità e crescita, Germania e Francia hanno infranto le regole, ma nessuno ha detto niente a riguardo. Quindi di fatto hanno scelto un opt-out. Penso quindi che uno dei problemi più grandi dell'Europa sia rappresentato da quegli stati che sottoscrivono accordi che non hanno intenzione di rispettare. In un certo senso l'opt-out è un modo più onesto di dire noi non accettiamo queste regole. E mentre i sarti europei cercano di confezionare un nuovo abito inglese su misura, i tempi restano incerti, ma il premier inglese non ne fa una questione di fretta. Il primo ministro vorrebbe un accordo il più presto possibile e così altri paesi. La commissione vorrebbe un accordo, ma il premier mi ha detto che non si farà imporre una tabella di marcia. Non vuole che un accordo raggiunto a febbraio debba essere per forza il migliore da presentare agli inglesi. Sì, sono ottimista, ma non posso assicurare che ci sarà un accordo in febbraio. È molto probabile che Cameron voglia rimanere nell'Unione, ma se non otterrà l'accordo giusto, potrebbe dire che dobbiamo lasciarlo. Ma tenere un piede fuori dalle regole europee è una prospettiva che non dispiace nemmeno ad altri paesi. Christian Tulsendal, leader del Partito Popolare danese formazione euroscettica di estrema destra, festeggia tra gli applausi la vittoria della sua campagna per il no al referendum che si è tenuto a dicembre in Danimarca. Tecnicamente ai danesi si chiedeva di trasformare uno dei quattro opt-out negoziati da Copenaghen dopo il rifiuto dell'accordo di Maastricht nel 92 in un opt-in, ovvero in una clausola di adesione flessibile. Detto altrimenti, con la vittoria dei sì, il Parlamento avrebbe potuto decidere a semplice maggioranza se adottare, caso per caso, un pacchetto di leggi europee in materia di giustizia e affari interni. A Copenaghen si chiedeva inoltre un'adesione diretta all'agenzia Europol. Il referendum però si è trasformato in un quesito indiretto sulla sovranità stessa, come racconta Anders Vistisen, europarlamentare danese del Partito Popolare, anche lui nel gruppo dei conservatori. Per molti danesi le decisioni su come punire le persone e quando metterle in prigione sono affare nazionale. Ha molto a che fare con quello che definisce la sovranità di uno Stato nazionale. Non credo che gli elettori pensino che queste questioni possano essere regolate meglio a Bruxelles che a Copenaghen. L'Unione Europea dovrebbe avere competenze dove ha senso che le abbia, dove porta valore aggiunto. Non penso che l'UE debba avere potere tanto per averlo. Credo molto nella sussidiarietà. Le decisioni dovrebbero essere prese il più possibile vicino alla gente. Se bisogna avere una taglia unica per Italia e Danimarca, ci sarà sempre un compromesso, sia in Italia che in Danimarca, e nessuno sarà veramente contento. Il risultato ha visto il no vincere con poco più del 53% contro i sì a oltre il 46%, come nel 2000 quando Copenaghen aveva detto no all'euro. Scarsissimo però l'interesse internazionale per la vicenda danese, eppure resta vivo nella gente il desiderio di tenere un piede fuori dal perimetro delle regole europee. I danesi non sono gli unici. L'Olanda avrà un referendum per bloccare l'accordo tra Unione Europea e Ucraina. Non si parla di opt-out, ma il governo, che non lo ha voluto, è più che in imbarazzo. In discussione sono messi ancora una volta la forma e il fine dell'Unione stessa. Altri paesi come Austria e Finlandia seguono a distanza con dibattiti accesi sull'uscita dell'euro. Tutti tengono però gli occhi aperti sull'Inghilterra. Many Europeans would like Europe to work. A molti europei piacerebbe un'Europa che funzioni, con una cooperazione concreta e un mercato interno. Ma agli stessi non piace l'idea di un'unione politica, di un'integrazione in uno Stato federalista. Quindi credo che l'Europa si stia facendo del male nel pretendere tutta questa integrazione politica forzata. Se venisse fuori che la Brexit non avrà un vasto impatto economico, se ad esempio gli inglesi avranno ancora un quadro di libero scambio con l'Unione Europea e se saranno capaci di mantenere la crescita come punto di riferimento dell'economia britannica, credo che tutto ciò spingerà quasi certamente la nascita di un movimento di uscita dall'Unione Europea in Scandinavia, prima fra tutte Danimarca e Finlandia, e causerà altre conseguenze in altri paesi europei. Se l'Unione Europea non comincerà a rispondere all'euroscetticismo, tutto il progetto europeo ne soffrirà e in modo molto serio. If they don't start to take it serious, I think that the entire project could suffer and suffer very severely. Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus.